espressioni di settembre. Era il 1971, ma oggi, nel 2012, noi ritroviamo la PFM, la premiata Forneria Marconi, in concerto a Pietrasanta, al Teatro La Versiliana, proprio con Franz Di Cioccio, voce batterista del gruppo, con uno spettacolo 35 un minuto, una carrellata di tutti i più grandi successi della band. Allora, diamo subito il benvenuto a Franz Di Cioccio, anche con una certa emozione. Buon pomeriggio, sappiate che sono un ascoltatore Radio 24, perché io mi sento a casa, voi anche, quindi siamo messi bene, ecco, dico. Allora è un'unione, l'unione fa forza. Allora, no, è sempre strano quando un musicista mi dice ascolto Radio 24 in una radio che non fa musica, però comunque non fa musica, ecco, da ascoltare. Forse questo è il segreto è che una radio che si può ascoltare viaggiando, senza ascoltare, spesso ci sono delle orribili playlist nelle radio normali, e invece ci sono degli argomenti che voi trattate che fanno veramente compagnia, fanno pensare, fanno riflettere. Quello che dice, la passione si sente, insomma, in poche parole. Grazie, allora, detto da Franz Di Cioccio, noi ci prendiamo il complimento, grazie infinite. Allora, intanto, a me ha sempre incuriosito chi canta e suona la batteria, perché ho sempre pensato che fosse una contraddizione. Dopo quanti anni tu canti e suoni la batteria? È difficile? No, è da sempre che lo faccio, è una questione come andare in bicicletta. Una volta che hai imparato, le mani vanno da una parte, i piedi dall'altra, e mentre canti, cioè devi decidere qual è il tuo punto di equilibrio. Il punto di equilibrio è il ritmo, ce l'hai dentro e quello va da solo. E poi la voce invece canta e sta in un altro posto. Però poi col tempo ho pensato che per avere più contatto col pubblico era forse meglio venire avanti come si usava negli anni 70. Non sono l'unico, c'è stato Phil Collins che l'ha fatto nello stesso periodo che l'ho fatto io, c'era White degli Earth, Wind & Fire, c'è la tradizione dei batteristi cantanti. Io ho esagerato e sono venuto anche davanti, quindi ho un secondo batterista che mi dà il cambio quando io sono davanti a cantare. Devo dire che è bello, perché mi piace poter dialogare ed avere un pubblico con cui interagire. È Roberto Gualdi il tuo secondo batterista? Roberto Gualdi, sì, il mio alter ego. Senti Franz, quanti siete sulla scena e il concerto perché 35 un minuto? Ma perché sono passati 35, cioè adesso sono diventati di più 35. Quando pensavamo 35 sembrava già un numero eccezionale, però quest'anno ci avviciniamo ai... Sono 40 anni che è uscito il nostro primo LP, perché come tu hai ricordato il 71 è uscito Impressioni in settembre, che è stato il primo singolo. Però il disco era già pronto, ma Impressioni in settembre ha avuto un tale successo che abbiamo rimandato l'uscita. Quindi diciamo che in questo periodo si fanno 40 anni dal nostro primo disco Storia di un minuto, e per questa ragione che noi ripercorriamo un po' questo viaggio lunghissimo nella musica con un spettacolo, direi, poderoso, pieno di musica, che non so, diventa un po' come una specie di galleria in cui tu riesci anche a capire le epoche, a sentire il profumo delle cose che ci sono state e che ci sono, perché il successo è una cosa che ti rimane se tu col pubblico sei sempre stato sincero e hai sempre osato prima che loro ti dicessero ma insomma sei ancora lì. Ecco, diciamo che PFM ha questa prerogativa, è sempre un po' più avanti di quello che la canzone che suona sta raccontando. Nel 1970, no, si facevano questi dischi, i Pink Floyd, poi c'erano Emerson, Lake e Palmer, dove ci si perdeva, no? Le canzoni duravano 12 minuti in questi, ricordato te, questi LP, no? Anche voi, no? Vi perdevate. Sì. Ecco, perché non si fa più questa musica? Perché siamo tutti diventati così stretti in questi 3-4 minuti di queste batterie, di queste sonorità, boom boom boom boom? Per questa ragione, perché le radio hanno imposto un certo ritmo, le radio commerciali, diciamo. Una volta l'ascolto del disco era una normale attività che il ragazzo, il giovane, comunque l'ascoltatore faceva, come andare a vedere un film. Non puoi vedere un film in 3 minuti, non puoi vedere un film in 4 minuti, se no diventa uno spot pubblicitario. Allora per il film ti prendi ancora uno spazio. Nella musica chi ha questa capacità è fortunato, perché la musica racconta cose, ma tu devi lasciarti andare, devi dargli lo spazio di farti penetrare dalle sensazioni. Nel concerto questo si può ancora fare, questa è la ragione per cui il PFM fa dei concerti abbastanza lunghi, durano 2 ore e mezzo come minimo, perché siamo un gruppo diesel, una volta che fai partire la macchina e poi suoniamo, col pubblico si stabilisce un'empatia talmente forte che gli rimane per qualche mese questa sensazione di aver goduto di un momento molto bello. Questo dal vivo si può ancora fare, nei dischi tutto è stato ridotto a un pugno di minuti, ed è la ragione per cui all'inizio ti ho detto preferisco ascoltare le radio in cui mi raccontano cose che mi fanno pensare. Ecco. Oggi la musica in radio ti fa pensare molto meno. Ecco, non possiamo non parlare, no, della vostra collaborazione con De André. Se noi abbiamo fatto questa cosa che è stata in Italia un momento proprio di svolta, uno snodo artistico epocale molto forte, perché prima di noi nessun cantautore si azzardava ad entrare nell'area del rock, nel territorio della musica. Noi abbiamo, con la nostra musicalità, abbiamo esaltato alcune componenti che De André aveva tralasciato, puntava molto sulla poesia e non si accorgeva che la musica era molto molto forte, musica tra l'altro aveva scritto lui, e noi abbiamo fatto altro che dare un nuovo orizzonte alla sua musica, una nuova sceneggiatura sonora, se vuoi, e questo è stato un po' la cifra del successo, perché mai nella storia della musica italiana era accaduto che due artisti si mettessero insieme per fare un progetto così innovativo. Rimarrà però negli annali della storia il vostro Pescatore insieme ad André, che era bellissimo, e quindi ricordiamo Franz Di Cioccio e la premiata Forneria Marconi, voce batterista del PFM, questa sera in concerto a Pietrasanta, Teatro La Versiliana, spettacolo 35 un minuto, una carrellata di tutti i più grandi successi della band. Grazie Franz, che abbiamo scoperto anche un ascoltatore di Radio 24. Grazie a tutti voi, un abbraccio grosso. E noi con questa musica naufraghiamo con lo spettatore, sì, perché come Odisseo naufraga nel Mediterraneo, Roberto Zappalà con la sua compagnia Zappalà Danza produce questo spettacolo, Naufragio con spettatore, che andrà in scena questa sera, lunedì 20 agosto, al Teatro dell'Aquila. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cosa succede in scena in questo spettacolo di danza? Il lavoro è tratto da un'ispirazione di Naufragio con spettatore, appunto, di Hans Blumenberg, che è un filosofo, e quindi narra in maniera molto cruda, poetica, non narra in realtà, fa filosofia, della situazione dell'atteggiamento della società, in qualche modo usa delle metafore, ovviamente, anche perché è ispirato, anche lui a sua volta si è ispirato alla zattera della Medusa di Gerico. Attraverso queste metafore, le mie e le sue, cerchiamo di tracciare, di percorrere un argomento crudele, crudo, cioè quella della visione, dell'attesa di chi osserva un evento tragico e ne è felice, ovviamente, che di questo evento il proprio corpo non ne venga in qualche modo contaminato. Questa, ahimè, è la situazione che... E l'evento infelice è il viaggio della speranza di molti immigrati verso le nostre coste? Esattamente, questo è quello che stavo dicendo. Ahimè, è sempre super attuale. Io ho fatto questo quasi 8 mesi prima, un anno prima della prima ondata, fra virgolette ovviamente, ondata di uomini, no, che percorrevano il Mediterraneo, o meno, quantomeno quest'ultima ondata di questi ultimi anni, perché precedentemente ovviamente il Mediterraneo ne aveva inghiottiti già altri, e quindi anticipando, ahimè, quelli che sarebbero stati i tempi nefasti che poi realmente sono arrivati, e ancora oggi, dopo 3 anni dal debutto, siamo super attuali, ahimè. E quindi, diciamo, attraverso delle metafore, attraverso delle visioni, anche appoggiandomi al meraviglioso quadro di Gerico, diciamo, abbiamo attraversato anche noi il Mediterraneo cercando di far assaggiare l'acqua salata anche al pubblico, quindi prima di tutto i miei danzatori, che sono 2 in questo caso, e poi anche al pianista e alla soprano, ma soprattutto poi al pubblico, perché per questo si fa lo spettacolo. Ecco, allora, i danzatori sono Roberto Provenzano e Fernando Roland Ferrer. Ricordiamo invece, la musica è interamente di Bach ed è seguita dal vivo, no? Certo. Da Alice Sorley, con la partecipazione del soprano Marianna Cappellani. Un'ultima precisazione: sono per il clavicembalo ben temperato di Bach, appunto. E che cosa succede? Ci sono questi 2 danzatori, uno è lo spettatore e uno è il migrante? Questa è una sorpresa. Ah, vabbè, e allora grazie, devo dire che ci hai già incuriosito, Roberto. Ricordiamo, questa sera alle 21 al Teatro Comunale dell'Aquila, Naufragio con spettatore di Roberto Zappalà, regista e coreografo. Grazie Roberto. Niente, figuratevi, grazie a voi, ci vediamo stasera. Sembra alla finestra, è vero, gente che vorrei appasciata. E noi andiamo a Caltagirone, in provincia di Catania. Ringraziamo per questa entrata di Carmen Consoli, che già ci illustra un pochino l'atmosfera di questo bellissimo festival. Si tratta di Teatri in Città, da oggi fino al 25 agosto, e diamo il benvenuto al direttore artistico Fabio Navarra. Buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio a voi, grazie per la vostra attenzione. Allora, che tipo di rassegna portate in città? Questa è la 18ª edizione di un festival di teatro contemporaneo che noi organizziamo qui a Caltagirone, appunto, da 18 anni. Un festival che, nonostante le difficoltà che riguardano appunto il teatro italiano in generale, la cultura, nel rapporto appunto con le istituzioni, continua a resistere anche grazie al sostegno del pubblico che ci segue e degli artisti colleghi, quest'anno quasi tutti siciliani, che appunto presenteranno i loro spettacoli nell'ambito del festival che appunto da questa sera fino a sabato appunto si svolgerà a Caltagirone. Sono 6 spettacoli proposti da altrettante compagnie siciliane che esplorano appunto i nodi dolenti dell'attualità contemporanea. Un microcosmo estremo per certi versi, ma esemplare appunto come specchio dell'universo globale. Quindi sono solo spettacoli di autori siciliani? Sì, abbiamo compagnie siciliane, iniziamo proprio questa sera con una compagnia che viene da Marsala, che presenterà questo spettacolo intitolato Tadrarite, in cui in scena saranno 3 donne che raccontano appunto la morsa alla gola della storica condizione femminile in Sicilia. Al capezzale del marito morto di una delle 3 donne vivranno appunto questa notte, che è anche una notte di passaggio appunto per quella che è la loro esperienza della condizione femminile in Sicilia. Ecco, poi io vedo che martedì, domani siete con Buon Vino Non Mente, Dove le stesse mani. Mi interessa invece giovedì 23 che fate Richard III, Ovuro, la nascita di un Novu Putiri? Sì, scusa, giovedì, appunto, non conosco. Presenteremo questa. Me lo ripeti? Me lo ripeti meglio. Sì, Richard III, ovvero la nascita di un Novu Putiri. Naturalmente si tratta di un Riccardo III di Shakespeare in versione siciliana, che appunto è stata ridotta da questo autore Giuseppe Massa, con un interprete singola che appunto farà diversi personaggi in scena. Si tratta di Simona Malato, che ha lavorato anche con Emma Dante, quindi porterà quella che è la sua esperienza in scena in questo spettacolo appunto particolarmente forte e coinvolgente, che già ha riscosso ampio successo in altri contesti teatrali qui in Sicilia e in Italia. Ecco, noi sappiamo che Edoardo, no, fece la famosa Tempesta in napoletano, ma perché una persona vuole fare Riccardo III, con un dramma proprio storico inglese in siciliano, e soprattutto qual è il significato e come l'ho legata alla vostra terra? Questa idea appunto del legame che lega anche appunto questa esperienza di riduzione teatrale di uno Shakespeare, in fondo si lega anche a questa idea della Sicilia come universo molto originale, con appunto le contraddizioni, che quindi poi diventa anche un po' lo specchio dei nostri tempi contemporanei, ma anche della nostra società. Quindi, come dire, interessante anche questo lavoro di riduzione che è stato fatto di questo testo da un autore siciliano che appunto riesce a trovare degli elementi in comune appunto nella tragedia shakespeariana con quella che è la realtà, appunto, come dicevo prima, contraddittoria che noi viviamo qui in Sicilia. Poi avete i due passi, sono il castello di Sancho Panza di Messina, e poi avete però un'associazione culturale di Trieste che mette in scena Salvatore, favola triste per voce sola. Sì, noi venerdì appunto ospiteremo con grande piacere questa compagnia di Messina, appunto Carullo Minasi, che è reduce da un successo importante con questo nuovo spettacolo che hanno prodotto, che è stato premiato anche con il premio Scenario Ustica 2011. E appunto poi concluderemo la rassegna, il festival, con questo spettacolo che è stato prodotto da una compagnia di Trieste, ma vedrà in scena un unico attore catanese che è anche l'autore appunto di questo spettacolo. Quindi insisto appunto su questa idea di sicilianità che nasce anche da una necessità, nel senso purtroppo le riduzioni dei contributi di natura pubblica ci hanno obbligato a fare una scelta che è quella di esplorare appunto il teatro siciliano, che è particolarmente ricco e vivace nonostante appunto le difficoltà che si incontra nel rapporto con le istituzioni, che probabilmente dovrebbero portare un po' più di attenzione a quello che è il sistema teatrale in generale, culturale, ma questo è un problema molto purtroppo più grande che riguarda. Infatti, Fabio, allora intanto ricordiamo appunto, come dicevi, l'importanza del teatro siciliano. Io direi che ricordiamo sempre che Pirandello, che è il più grande autore di teatro italiano, era appunto siciliano, no? Sì. Non fa mai male ricordarlo. Allora, Teatri in Città a Caltagirone, da questa sera fino a sabato, vari spettacoli, come abbiamo sentito, di teatro contemporaneo, di teatro contemporaneo siciliano. Grazie Fabio. Grazie a voi, buona serata. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.